Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qua, le 8:19 minuti. Caro Alessandro, cari ascoltatori, oggi 26 di novembre, San Bellino, il governo ti fa il regalito. Ah, San Bellino. È un San Bellino, un vescovo di Padova che insomma è 1100, quindi un vescovo che si è trovato sulla trincea a combattere negli anni in cui chiesa e papato erano uno scontro. Il governo ti fa un regalino. Ti fa un regalino. La credit card. Per i diciottenni. La cultura card, come la card cultura, come l'hanno chiamato? Come la chiamerai? Vai al cinema, pago io. Vai al cinema, pago io sempre. O comprati un libro, dai, diciamo anche una cosa un po'. Vediamo più. Se io voglio sperare che sia libri, eccetera, eccetera. Se c'è anche, siccome l'industria creativa della cinematografia italiana mi induce a credere che sarà anche, beh, cinema pago io. Sì, sì. 275 sì. milioni per i diciottenni. L'idea che qui si è diffusa anche tra i nostri ascoltatori, devo dire, sia io che te, Oscar, glielo dicevamo, che sia una mossa elettorale, anche perché si racconta, oggi tutti i sondaggisti fa questo lavoro, la stampa va a verificare che tra i 18 e i 24 anni quelli che votano, perché la maggior parte non gli frega niente della politica, quelli che votano sono propensi forse a votare più il Movimento 5 Stelle, allora bisogna pescare lì, ecco. Se devo dire che ieri però la reazione dei nostri ascoltatori in alcuni casi mi ha stupito. Io ho passato alcune ore, davvero si sono ore arrabbiati ieri. Alcuni mamma mia, c'è chi mi ha augurato morti in serene delle più colorite. Adesso, devo dire adesso. No, ma mi colpisce, lasciamo stare i matti. Sto scoprendo, no, che Renzi ha dei fan i cui toni, ma secondo non me è un fan di Renzi uno che ti augura la morte. Beh, alcuni sono deficienti, capisco, sono d'accordo, però voglio dire, i toni stanno crescendo e secondo me questo poi spiega anche con le difficoltà crescenti, no, che ci hanno. Sono molti anche che ci hanno scritto dicendo: ah beh sì, voi sputate su 500 euro. Ma chi sputa su 500 euro? È il concetto, almeno io non l'ho capito, è il concetto, qualcuno oggi ha scritto, crea così Renzi l'idea che a 18 anni già c'è una sorta di forma di assistenzialismo dello Stato, cioè ti do la mancetta per fare. E poi, secondo me, come spiega bene Ferrera sul Corriere oggi, ha maggior ragione, proprio perché non sottovalutiamo 275 milioni di euro. Il problema è, ma non è che ci sono tanti che avrebbero più titoli nella disastrata Italia del welfare, che sappiamo come funziona, che ne avrebbero forse più, ecco, ecco, questa è la nostra per domanda. Esempio, un'altra mamma ci ha scritto, ma scusate, ci ha mandato prima un messaggio WhatsApp in segreteria, 500 euro alla cultura va benissimo per il mio figlio che compirà 18 anni l'anno prossimo, poi però se mi aumentano le scuole, le rette, le mense, quello non è un attacco alla cultura, cioè mi impediscono di... Vabbè, comunque, la nostra opinione, impressione aperto. O quantomeno per farvi riflettere, cari ascoltatori, e di mettervi il dubbio in testa, poi ognuno giustamente la può pensare come anzi, vuole. 800 24 00 24, ditecelo, perché poi approfondiremo anche con 2 ospiti politici. Oscar, ma pare che ci saranno anche emendamenti, comunque un emendamento è contro il terrorismo, la strada è lunga, cari zoppi, il governo vi compra la protesi, cioè, no, come no, sì, assolutamente. Ma ti garantisco, vedrai, sarà un fiorire, spunterà questo emendamento all'ultimo. No, siccome hai parlato di risorse destinate forse ad altri e invece dirottate, oggi il Messaggero, questo bel esempione, il va? Messaggero fa questo titolo: sono stati dirottati, lo scrive Andrea Bassi, fondi 523 milioni dal fondo per gli esodati, e di questi 523 milioni 123 sono dirottati per il giubileo, per il Papa. Vabbè dai, per il giubileo, per il Papa. Per il giubileo. E dal. Per finanziare il giubileo. Allora io vorrei parlare con il un Papa esodato. Che dice in che momento. Il terrorismo nasce dalla povertà. Sì, è un po'. Ci come, sarebbe da dire. È un po' però, come vabbè. La vicenda del terrorismo, che sono figli delle banlieue. Sì, però esatto. dal Papa lo accetto. Papa, dal Papa dice, lo accetto. Nel diritto del Papa c'è tante sciocchezze. Fare i processi contro i giornalisti. Fare i processi contro i giornalisti. No, perché su questo, poi torniamo al punto, perché bisogna dire la cifra di cui stavi parlando. Però. insomma, che tutti i direttori dei grandi giornali italiani e che le istituzioni della Repubblica siano mute sul processo Nunzio Fittipaldi, secondo me, sottolineiamolo. Sono totalmente d'accordo. E lì certamente il Papa ci ha messo lo zampino. Però che il Papa faccia un discorso contro la povertà mondiale, che sia fonte povertà, sì. Se il terrorismo viene dalla povertà, non so se conosci i generali saddamiti che sono a testa dell'ISIS, non gente povera. Osama Bin Laden non era un povero. No, e così però via. I luogotenenti, o meglio gli autori, spesso riescono a incidere sulle menti di persone. Capisco, però tu dici giustamente il Papa. Il Papa fa un discorso, insomma, di lotta. Ma di torniamo a quello che dicevi. No, esatto, i fondi tolti agli esodati per finanziare il giubileo. Del cioè, Papa. Io vorrei parlare. Cardinal Giannino, no, basta. La riporto all'ordine. Sì. Cioè, vorrei parlare con un esodato. Un esodato che oggi legge, apre il Messaggero e dice: ma come? Mi hanno detto che non ci sono i soldi per gli esodati perché bisogna darli al giubileo. Del Papa, è come dici che non devo dirlo e poi mi passi la palla. No, allora io però a questo proposito, altro motivo di riflessione, mettiti nei panni dell'esodato che dopo aver appreso che 123 milioni vengono devoluti a quello, legge, se è in Lombardia, perché la cosa appare sui giornali lombardi, la seguente faccenda, che nei soli anni, nei sei anni 2007-2013, per l'ordine dei francescani della sola Lombardia, di cui ci stiamo parlando, ci sono ammanchi per 49 milioni, che non significa che non avevano un euro, ma insomma quei 49 milioni erano un po' spariti, e questi 49 milioni sparivano perché se li mettevano in tasca, oltre agli economi delle tre province dell'ordine dei francescani lombardi, singolari personaggi tipo un italiano di doppia cittadinanza, perché anche che ne ho, anzi tripla perché sta anche in Svizzera, che ha di tutto, ha imprese, hotel eccetera eccetera, e che gli prometteva investimenti al 12% e si rubava i soldi. Secondo te la notizia qual è? Che qualcuno ha fregato 50 milioni di euro dai francescani, o che i francescani avessero 50 milioni di euro? No, le notizie sono quantomeno tre. Primo, che i francescani hanno come ordine di sopravvenienza in più 50 milioni, senza i quali campano comunque, quindi tanto poveri non sono, in soli sei anni 50 milioni sono tratti. Secondo, che gli economi dei francescani rubavano e contribuivano a rubare. E terzo, poi c'è un faccendiere. Che attribuivano. Per fortuna la segnalazione alla procura viene dai francescani stessi a fine 2013, si sono resi conto che però insomma, qualcuno rubava. Non proprio sta povertà indefessa. Allora, però a me ha incuriosito, lo so che tu su queste cose non hai la mia stessa pruderia, la mia stessa voglia, un po' di morbosità. Ma e poi ce la prendi con me che poi Il Giorno oggi titola in prima pagina dei messaggi hot tra Francesca Sciauqui e Monsignor Balda, cioè due degli imputati in questo processo. I messaggi hot: c'era la Francesca Sciauqui che suggeriva a Monsignor Balda di, devo utilizzare questa parola, trombare la cugina Silvana, cioè Francesca Sciauqui, ti presento Silvana, mia cugina, vuole trombare, che facciamo? Stai leggendo davvero l'intercettazione? Sì, testuale, mamma mia. Ti giuro. E a un certo punto Monsignor Balda dice: vabbè, ma è brutta, che devo fare? È brutta. Ah, questa è l'argomento. Fa un po' sorridere, ma i messaggi hot del Monsignor Silvani oggi. Era la signora Silvani di Fantozzi, secondo me. Era la cugina, era la figlia Silvana di Fantozzi. Si potrebbero riassumere tutte così in un messaggio che a un certo punto la Sciauqui, sempre più arrabbiata con Monsignor Balda che non le dà retta, chiude con un messaggio dicendo: vabbè, sei depresso, tromba che ti passa. A Monsignor Balda. Non si conosce la risposta del Monsignore. Ma perché erano, forse l'equivoco del maresciallo che però sta scrivendo, erano inequivocabilmente le trombe del giudizio, quelle a cui faceva riferimento, non le trombe di Falloppio. No, ma altro. A parte questo, in quell'articolo c'è anche la foto del papà di Renzi, perché si dice in questo articolo che tra i vari messaggi Francesca Sciauqui prometteva ai genitori, al papà e mamma di Renzi, di farli incontrare il Papa. Il Papa, la cugina, cioè strani mercimoni. No, la vicenda della cugina è separata. La cugina Silvana, morbidissima, come la definisce Francesca Sciauqui. Morbidissima. Quella era per Monsignor Balda, ma insomma, invece il resto no. E poi c'è un'altra cosa che so che ti ha incuriosito. Mi ha incuriosito, sì. Su Roma, io capisco che adesso il prefetto Tronca risolve tutti i problemi che Marie non ha risolto, però questa ordinanza di cui c'è oggi notizia su tutti i giornali italiani, cioè basta con i centurioni e con i Riscione e il centro di Roma, benissimo, dico io, Però perché solo per il Giubileo? Perché per il Giubileo bisogna preservare la dignità della capitale. Poi finisce il Giubileo del Papa e invece la dignità della capitale, che evidentemente viene giudicata dal commissario lesa dai centurioni, quella può tornare a essere ma invece calpestata. Ma ce n'è solo questo Giubileo del Papa? Guarda che anche SMS dicono, ma i soldi tolti agli esodati per fare opere per il Giubileo, rimarranno poi a Roma queste opere? No, sì. Che si tratta di cammini e sensi unici che vengono smontati per il Giubileo. I soldi per il Giubileo che rimangono? Mica vogliamo rimanere con i sensi unici pedonali tutto, e che facciamo? Non circoliamo più questi per Roma. 123 milioni, ma vabbè. Però, comunque, allora, i centurioni bisogna levarli solo per sempre. Il Papa o bisogna levarli sempre? Se sono invalenti, e quindi dice che per il Giubileo vanno levati per sempre. Tronca. Se tronchi, tronca per bene, altrimenti stronca. Esatto. Ma no, dai, su. Il prefetto stronca più che altro. Le misure ad hoc sulla dignità delle città si prendono a tempo perché c'è il Papa, e poi dopo no, perché ci sono i cittadini romani, quelli invece se li meritano i centurioni. Ma allora, caro Oscar, chiamali in tanti sulla questione della credit card cultura. Sentiamo cosa ci dice Barbara da Pescara. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Io vorrei raccontarvi la mia esperienza. Ho due ragazzi che vanno molto bene a scuola e per questo possono prendere la borsa di studio erogata dall'ex INPDAP e adesso INPS. Sì. Quest'anno avrebbero potuto accedere a una borsa di studio di 2.350 euro. Con la revisione del calcolo ISEE e la riduzione delle borse erogate è stata negata. Aia. Però per merito viene negata, per 500 euro così indistintamente a qualunque carciofone viene dato. Carciofone, diciottenne sì, però, carciofone diciottenne. Carciofone. Tra l'altro ma hanno 18 dire... anni i suoi figli, cioè qualcuno dei no, due... una 17 e uno 15. È perfetto, guardi che 18 anni vale per chi li compie l'anno prossimo. E poi per tutti gli anni prossimi, finché Renzi governa, ovviamente. Però intanto il merito non viene riconosciuto. Tra l'altro io sono un insegnante, all'inizio mi hanno dato gentilmente gli 80 euro, salvo poi rivedere la cosa, si sono ripresi tutto nell'arco di 3 mesi. E perché? E perché era salito sopra la soglia di reddito. Salito, beh, se era salita sopra il reddito, signora. Barbara, svenuta questa notizia. No, perché io avrei voluto chiedere, però agli insegnanti la carta 500 euro hanno dato, perché anche a me ieri è capitato in trasmissione. Ma c'è ancora Barbara? No, è la linea telefonica. Comunque l'argomento era levare i soldi, le borse per il merito e dare indistintamente, discutibile. Va bene. Ammettiamolo. Armando da Napoli, buongiorno Armando. Buongiorno carissimi. Allora io sono come dire, sostenitore della vostra trasmissione, sono sempre pressoché d'accordo, ma questa volta no. Stavolta no. Benissimo. Anche con Giannino in particolar modo, perché anche se diciamo non sempre un provvedimento del governo può essere condivisibile 100-100, diciamo così. Ma una volta che restituisce questi soldi, ma mettiamolo con una musichetta, un motivetto che accompagna con un po' di ottimismo diciamo questo provvedimento. Un ragazzo di 18 anni che si trova 500 euro in tasca, ma se anche va più al cinema che compra i libri, ma è sempre meglio che non averli, oppure che il genitore debba cacciarli se ce li ha, magari non ce li ha tutte le volte che glieli chiede e che glieli serve, ma questi... Ma non voglio, io rispetto l'opinione di tutti. Io contrasto l'idea che sia un re discrezionale a decidere a chi dare le mance. E l'idea che siamo a tal punto sudditi da dire ma meglio le mance che niente, a me atterrisce. Ma io capisco che sono minoranza, io non sopporto il criterio discrezionale che precede il reddito e il welfare, punto. No, ma poi la questione forse è questa, si diceva Oscar negli giorni scorsi, non è tanto il 500 euro che fanno comodo e per appunto una questione importante come quella della cultura, è l'idea anche che sia una mossa elettorale, cioè se si leggono i giornali e si legge che la mossa nasce dal fatto che siccome la maggior parte di quella fascia d'età tra 18 e 24 anni è più propensa, se dovesse votare, a votare il Movimento 5 Stelle e quindi il segretario del Partito Democratico fa questa mossa a livello elettorale, se non altro diciamolo, ecco, per estrema, poi, per estrema è onestà. Libero di formarsi la sua opinione, la nostra è un po' questa qua. Andrea da Treviso che dice? Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, dico soltanto che è un'assurdità immane quella che vuole fare Renzi, perché è una cosa che è diseducativa verso i giovani, devono essere incentivati a lavorare. magari mezza giornata, ma non fare i fannulloni per le strade, pretendere. Vabbè, adesso non è che è la mia opinione. Però non è che questo Andrea incentiva l'essere fannulloni in questo caso, no? Su questo purtroppo una realtà, sì. Vediamo sulle piazze, sulle strade, e anche arroganza e bande. No, va bene, ma d'accordo, però non vedo in questo caso il nesso, non so se tu Oscar lo cogli. Anzi, se questi 500 euro servono a comprare dei libri, forse non sono da quel punto di vista in giro. Affiancati a una via per il lavoro apprendistato. Vabbè, insomma, vorrebbe più incentivo a farli lavorare. E va bene, questo è il suo pensiero. Immagina cosa sarebbe stato, dice, un governo che non c'è. Stabiliamo 275 milioni solo in diritto allo studio per i più meritevoli con i voti più alti. Sarebbe stata la rivoluzione contro, ovviamente. Beh, certo, è ovvio. Chi è che stabilisce chi sono i migliori? Chi è che giudica? L'Italia non si può giudicare, non si può giudicare nulla. Ecco, giusto per riflettere su come si possono dare messaggi, no? Di un tipo o di un altro, con somme che sono considerevoli. Sono considerevoli. 275 milioni non è proprio robetta. Va bene, vogliamo dare gli Oscar? Poi ne parliamo tra poco con due esponenti politici di questa vicenda. Gli Oscar! And the Oscar goes to... Io sarò polemico, ma lo darò a Fabrizio Corona. Fabrizio Corona che fa una lezione di marketing e comunicazione e pare faccia il pieno di 300 euro costa lezione di 3 ore, e quindi bravo Fabrizio Corona. Insomma, se uno vuole andare ad ascoltare Fabrizio Corona e spendere 300 euro per questa lezione, è il più intelligente di tutti, alla fine è il più intelligente di noi. Ma io non gli ho mai negato questo giudizio, che sia intelligente, no? Tu avevi i dubbi? No, ma infatti, Fabrizio Corona, il mio Oscar di oggi. Caro mio, fa il suo mestiere. Io invece, dopo l'articolo meritorio, di cui ieri non abbiamo fatto cenno, di Gilberto Corbellini sul Corriere, richiamo la stessa questione che oggi è ripresa sulla stampa da un appello di numerosissimi scienziati italiani contro la politica, siamo sempre lì, a discrezione della politica, che legge di stabilità dà un finanziamento di 3 milioni a un certo progetto scientifico di ricerca sulle cellule staminali per la SLA, non spetta alla politica decidere che cos'è un progetto di ricerca scientifica che valga la pena di essere finanziato, perché deve essere giudicato dalla peer review degli scienziati e così via. Così gli scienziati amici dei politici uccidono l'idea stessa della scienza. Vogliamo dirlo però, il progetto del professor Angelo Vescovi. È il professor Angelo Vescovi. Cioè, c'è una legge di stabilità 3 milioni per questo progetto, sì. E la comunità scientifica si è arrabbiata, dire, come arrabbiata mai solo per quel progetto? Innanzitutto prende i fondi dalla stessa posta con cui si finanziava la cosa di Stamina, per essere chiari, che è stato un grande scandalo che ha dimostrato come la politica è meglio che ci vada coi piedi di piombo prima di decidere lei chi sono i progetti scientifici amici. Secondo, il sottinteso è che si può fare ricerca su alcune cellule staminali e altre no, a seconda di come si legge la legge 40. Invece questo progetto di ricerca scientifico meriterà i fondi che le strutture di esame delle ricerche scientifiche, cioè quelle fatte da scienziati, una volta risultati alla mano, giudicheranno. Non deve essere la politica a dire: caro scienziato amico mio, ti do i soldi. Comunque, questo è il tuo Oscar. Noi tra poco avremo il senatore Marcucci e l'onorevole Gianluca Vacca, uno del PD, Marcucci, uno del Movimento 5 Stelle, e parliamo di questi 500 euro tra poco. State ascoltando un programma offerto da Più libri, più liberi, dal 4 all'8 dicembre al Palazzo dei Congressi dell'Euro, Roma. Alle 8:40 minuti siamo qui, caro Oscar. Eccoci Giannino. Qua, interrogarci allora sui 500 euro ai 550.000 diciottenni annunciati da Renzi come un contributo dell'Italia coerente alla sua storia alla lotta al terrorismo. Le perplessità noi le abbiamo già manifestate, ma ne vogliamo parlare con Andrea Marcucci, che per il Partito Democratico presiede la Commissione Istruzione e Cultura del Senato. Buongiorno, senatore Marcucci, eccoci. Buongiorno a voi tutti. Così come saluto Gianluca Vacca, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Vacca e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora Marcucci, noi le perplessità le abbiamo espresse io e Oscar Giannino, cioè a dire che sembra più una mossa, una captatio benevolenza per i diciottenni che magari votano il 5 Stelle secondo i sondaggi. Lei che dice? No, immagino. Ma io dico di no, permettetemi, mi sembra un approccio un pochino superficiale. Io credo che sia, diciamo, un provvedimento estremamente interessante in linea con i provvedimenti che dall'altro sono già in essere. Questa carta è stata già istituita per i docenti e credo sia un approccio veramente diverso, moderno, che spinge i consumi culturali, oltre che supportare l'industria culturale. Io credo anche che la battaglia, in un momento così delicato, mi riferisco ovviamente a quella all'estremismo islamico, al terrorismo e ad ogni forma di violenza, si debba vincere sul campo culturale, aiutare i giovani, incentivarli, supportarli ai consumi che vanno in questa direzione, mi sembra una mossa estremamente intelligente. Del resto, che la cultura e gli investimenti in cultura in senso ampio siano tornati a essere centrali nell'azione di governo non è da oggi, non è da questo provvedimento, è confermato da questo provvedimento, ma è già presente nella legge di stabilità che è già passata al Senato, sì, è già presente nei precedenti provvedimenti presi da questo governo e anche nel provvedimento sulla buona scuola. Io credo che sia un'ennesima conferma che questo governo, questa maggioranza credono nella cultura come supporto allo sviluppo e anche come, diciamo, antidoto contrasto a deliri dei tempi recenti. Va bene, questa è la motivazione. Come, a chi andrà? A tutti i diciottenni l'anno prossimo? Sarà una carta? Sarà un, se è già capito come sarà dal punto di vista pratico? Presidente del Consiglio, ma che ovviamente poi ha il passaggio parlamentare, quindi entrerà nella legge di stabilità, nel dibattito alla Camera, vediamo diciamo esattamente come verrà definito il provvedimento, però la linea è quella attuata con i docenti, quindi 500 euro di una carta da spendere, diciamo, in iniziative culturali, consumi culturali. Sì, sì. Invece il Movimento 5 Stelle, Oscar, sentiamo Gianluca Vacca e poi facciamo le nostre considerazioni, ha lanciato addirittura l'hashtag su Twitter "tieniti il tuo bonus". Perché Vacca dà così fastidio l'idea di dare 500 euro ai diciottenni? Ovviamente, cioè, nessuno può essere contrario a dare più soldi a qualcuno, questo è un principio che dovrebbe valere sempre, però qua siamo, non ci dobbiamo prendere in giro, qua siamo all'ennesima mancetta elettorale, come la potremmo definire. Cioè, guarda caso, prima delle elezioni Renzi si ricorda di dare dei soldi a qualcuno, fu come fu per gli 80 euro, come fu per 500 euro a docenti e come adesso. Come dicevate voi prima, non a caso vengono date 18 anni, perché non ai 16 anni allora, perché non ai 15 anni? Che sono là proprio che si inizia a fruire della cultura e là che bisognerebbe intervenire per la fruizione culturale. Perché proprio i diciottenni? Guarda caso, perché i diciottenni dovranno andare al voto adesso, nei prossimi mesi. Cioè proprio per le amministrative, dice lei? Assolutamente sì, ma sono provvedimenti spot, non sono provvedimenti strutturali, sono provvedimenti insensati. Si vuole fare qualcosa? Bene, allora si renda gratuita la fruizione, per esempio, dei musei per tutti i ragazzi, anche in quelli privati. Si faccia un intervento strutturale, non un intervento spot che durerà quest'anno, finanziato oltretutto, come appare, con risorse che saranno soltanto di quest'anno, che poi l'anno prossimo non si sa se avrà ancora delle risorse. E poi c'è un problema: il giorno stesso in cui Renzi ha annunciato questa ennesima misura spot, appunto, e c'è uscito un altro dato su cui noi combattiamo da 2 anni, da quando siamo entrati in Parlamento, io personalmente. L'Italia, per esempio, ha il numero più basso di laureati, lo sappiamo benissimo. Siamo al 23% circa, contro la media europea del 35%, con l'Europa che ci chiede, Horizon 2020, di arrivare al 40% entro il 2020, un obiettivo per noi raggiungibile. Siamo tutti d'accordo sul fatto che più alto è il numero di laureati e più alto è il benessere sociale ed economico di un paese? Penso di sì. Insomma, allora, poi misure più strutturali, non queste misure... Ovvio. Allora, aiutiamo i ragazzi a studiare, aiutiamo i ragazzi, noi abbiamo una proposta di legge da 2 anni bloccata a causa del governo per diminuire le tasse, rimodulare le tasse universitarie, per aumentare l'accesso al diritto allo studio. Proposta che invece questo governo sta curando in tutti i modi. Quello sarebbe invece una misura, ad esempio, strutturale per intervenire e aiutare veramente i nostri ragazzi. Ah, Oscar Marcucci dice che invece siamo un po'. È un approccio un po' superficiale quello di pensare, no, che sia una mossa elettorale. Ma io giustifico il fatto che i politici, quando sono al potere, cambiano linguaggio, obiettivi, strumenti rispetto a quando sono all'opposizione. Se Berlusconi avesse deciso di dare 275 milioni a prescindere dal reddito del percepiente ai diciottenni per dire in nome dell'industria, della creatività, ti pago il cinema e ti puoi comprare dei libri, il PD all'opposizione avrebbe detto che era una manovra elettoralistica, satrapesca, per iniqua, perché prescinde, lo abbiamo già spiegato ieri ai nostri ascoltatori, prescinde dalla situazione di reddito della famiglia a cui appartiene il ragazzo e così via. Invece quando si cambia il ruolo si cambia la maniera di ragionare. Questo poi fa anche capire perché la politica non fa più riferimento alle culture, perché i partiti hanno i problemi, vedi il PD che ha i problemi sui candidati a Milano, a Bologna, a Roma, a Napoli, così. Perché tutto si tiene, quando in realtà si sposano con disinvoltura gli strumenti che si criticano quando si è all'opposizione, quando si governa, vuol dire che è un vecchio difetto. Beh, questo difetto la politica ce l'ha dal V secolo a.C. ai tempi di Atene, non è che io sto dicendo che chissà quali novità negative ci sono, però detto questo, l'estemporaneità di questa trovata, che significa, beh, a seconda di chi diventa interessante di anno in anno agli occhi dei governi, anche i poliziotti li capisco di più, l'estensione degli 80 euro ai poliziotti incapienti, perché ci mancherebbe, visto che non gli diamo soldi per i contratti, allora lì c'è un criterio. Così darli a pioggia, ma 275 piace, milioni, secondo me non è una classica berlusconata. Senatore Marcucci, replichi a questo, berlusconata, e anche, guardi, prima ci ha telefonato una madre che è anche insegnante, a dire, ma come, io ho due figli, uno aveva una borsa di studio grazie all'INPDAP, ora perché ho superato l'ISEE, mi è stata tolta la borsa di studio, però il risultato è che lì si premiava con la borsa di studio il merito, qui si premia, o meglio si danno a pioggia a chiunque 500 euro, e contestava questo fatto. Marcucci. Bene, allora intanto partiamo dagli 80 euro, definito un intervento a spot, è un intervento strutturale e credo ormai lo riconoscano tutti, mi auguro anche il Movimento 5 Stelle, è uno dei fattori che sta determinando il rilancio dei consumi nel nostro paese. Poi una mossa estemporanea, non mi sembra una mossa estemporanea, guardate, l'ho detto prima, diciamo, i provvedimenti di questo governo hanno rilanciato fortemente i finanziamenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ma anche quegli investimenti sulla scuola in maniera pesante con la riforma sulla scuola e i 3 miliardi che abbiamo deciso di investirci. Il dibattito parlamentare sulla stabilità ha introdotto una serie di provvedimenti insieme al governo, i 55 milioni. Ma lei vede che mi fa elenchi di misure strutturali? No, aspetti, si interrompa. Lei mi fa esempi di misure strutturali e io lì le do ragione. Noi però non servono gli esempi che sta facendo, non servono, le permetto, ma non servono le misure strutturali a giustificare una misura che è estemporanea. Questa è la mia obiezione. O mi dice no, non è estemporanea. D'ora in poi nell'ordinamento della Repubblica, i decenni a venire, noi troveremo le risorse per finanziare, che è un premio ai diciottenni per i prossimi 30 anni. Allora diventa strutturale. Bene, le rispondo. Allora, gli esempi che stavo facendo, ne potrei fare altri, a testimonianza di una spinta sia del governo sia del Parlamento, di tutto il Parlamento, non solo delle forze di maggioranza, di spingere e di investire sul diciamo gli interventi culturali a supporto dello sviluppo giusto. Omogeneo del territorio, e questi sono, questi sono giusti culturali. All'interno di questo ci sono diciamo operazioni che devono avviare un percorso, alcune più strutturali, dopodiché si parte dove si può, quali sono le condizioni economiche del paese. Io credo che riferire alle future elezioni amministrative un provvedimento che viene preso oggi voglio dire, sia oggettivamente molto un'analisi molto superficiale, perché non è così, perché è una parte consistente di un processo più generale. Guardi, Berlusconi fu quello insieme al suo ministro Tremonti che ci spiegarono che di cultura non si mangiava. Sostenere che i nostri interventi a supporto della cultura sono una buia berlusconiata cioè, mi fa da una parte sicuramente sorridere, perché fa presa magari sull'audience. Però guardi, mi sembra molto lontano dalla realtà, magari avrebbe fatto provvedimenti molto diversi, le forze dell'ordine, cioè è un insieme, un pacchetto, si investe in sicurezza, si investe in cultura. Oggi è vero, si fa un intervento che durerà un anno, poi vediamo l'iter parlamentare, vedremo i risultati delle elezioni. Sono d'accordo a fare la battaglia in Parlamento, ma qui, da qui è l'accusa di estemporaneità, no? Da qui è la questione di estemporaneità. Però Vacca, perché lo collegare, effettivamente collegarlo proprio alle amministrative, dice Marcuccio, in modo un po' riduttivo, un po' superficiale di leggere questa norma. Fate il ruolo dell'opposizione e va bene, però allora io mi ci gioco quello che volete, insomma, scommetto quello che volete, anche se non ci sappiamo che siamo contro il il gioco d'azzardo noi, che questi soldi arriveranno a ridosso delle amministrative. Io verso marzo-aprile ho questo sospetto che secondo me è più che un sospetto. Ma al di là di questo, allora prendiamo l'esempio dei 500 euro ai docenti, agli insegnanti. Il provvedimento che abbiamo seguito, io personalmente abbiamo seguito direttamente quando è venuto alla Camera, perché sono anch'io in commissione di istruzione, e questi soldi devono servire per la formazione dei docenti. Sì, bene, il titolo era formazione dei docenti. Allora noi abbiamo fatto questi soldi se potranno servire in realtà anche per comprarsi un tablet, anche per andare al cinema a vedere magari Guerre Stellari, che sta arrivando il nuovo capitolo di Guerre Stellari, quindi saranno tutti contenti di andare a vedere Guerre Stellari con i soldi dello Stato, e potrà servire anche per queste cose che di culturale, a mio avviso, sì, poi si potrà dire che tutto, ogni film che si va a vedere al cinema è cultura, però poi dobbiamo intenderci a che cos'è cultura. Però questi soldi potranno servire anche per questo. Noi abbiamo proposto una cosa di buon senso durante la discussione: se vogliamo veramente utilizzare questi fondi per la formazione dei docenti, mettiamoli in un fondo, facciamogli dei corsi, miglioriamo la qualità dei corsi di aggiornamento e retribuiamo anche i docenti che vanno a fare i corsi di aggiornamento con quegli stessi soldi. Quindi quei soldi arriveranno ai docenti, saranno finalizzati alla formazione e all'autoaggiornamento. Cioè in maniera più dedicata. Finalizzata. Comunque... facciamo un provvedimento, oppure un'ultima cosa, un provvedimento, lo vogliamo rendere un provvedimento strutturale, prevediamo che i musei siano i musei, alcuni cinema, magari cinema che fanno la produzione culturale. Questo l'ha già detto, leva la tangibilità della card che arriva nelle mani, come ovvio, del diciottenne. Comunque, senatore Marcucci, onorevole Vacca, senatore Marcucci del PD e Vacca del Movimento 5 Stelle, vi ringraziamo. Il dibattito continua, è aperto. Quando vedremo e si concretizzerà, vedremo anche di richiamarvi. C'è spazio per Fabrizio da Novara? Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno, ma stavo ascoltando adesso, al di là dei vari discorsi ovviamente politici, però almeno da cittadino, la percezione che si ha di questi, diciamo, incentivi, bonus, sicuramente il principio è corretto, però sono d'accordo con chi dice che alla fine è più un provvedimento di pancia, sembrano distribuiti ovviamente a pioggia. Le regalie del re, così. E si rinuncia un po' invece a quello che è la strutturare la cosa, quindi dare anche un messaggio di costruire qualcosa anche per grazie il futuro. Fabrizio, cioè il senso è, se ho capito bene, il principio è anche giusto, è chiaro che viene dato in una plastica esibizione che appare ad alcuni, a noi lo abbiamo detto, se vuoi aiutare l'industria culturale italiana copri con tagli di spesa strutturalmente 275 milioni di tasse che fai pagare all'industria della cultura italiana. Questa è la mia cosa. Comunque, per fortuna non abbiamo parlato dei gioielli, ci siamo distinti, almeno noi non parliamo del gioielliere Corazza, perché basta, come i giornali italiani paginate. È un dramma, è una vicenda di cronaca, però, ma lasciamola. Ci fermiamo, Oscar, a domani. A domani, continuate con Radio 24, Mix 24, con Giovanni Minoli, con Buttafuoco e con Secchi, la sua squadra, mi raccomando. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...